Trasmissione. Radio, trasmissione dal vivo. Radio, trasmissione dal vivo. Ascolto il silenzio, la siato è chiara. Occhi scuri spigliati, spaventati dal sole. Per il mondo un bello coppia vivendo di notte. Prima un vistoso nettieca. Ci porta via la nostra vista. Potremmo andare avanti con sé. Rola forse sbagliato e nasconderci dal piano può restare da solo, restando nello stesso posto, fissando tutto il tempo, toccando da lontano oltre ogni tempo. Bala, bala, bala, bala, bala solo di la radio. Bala, bala, bala, bala, bala solo di la radio. Bala, bala, bala, bala, bala solo di la radio. Io potrei urlare quando le cose diventa sera difficile e potremmo entrare in contatto se solo non ci attendiamo, non il linguaggio, il suono di tutto ciò che conosco, cinque sismi o l'amor con il ritmo della spesa cola e potrò ballare, ballare, ballare, ballare, ballare al suono della radio. Bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala